FM, perché in FSK non sento niente, in FM IDER e in banda laterale niente, se non hanno qualche modulazione strana dovrebbe essere AM. Sanizio, non ce l'hai tu la cosa per vedere che tipo di modulazione è e la cascata, l'indicatore di cascata? Lì io lo sto guardando ed è praticamente c'è presente la macchina da cucire a zig zag, ecco, e praticamente sono due zig zag, uno di domanda e uno di risposta, che vanno, dovrebbe essere una specie di FSK o una cosa del genere, perché forse c'è un metro, non so, a meno che non sia una modulazione di quelle di quelli là, puntini puntini, ci siamo capiti, quindi con protocolli TEA e così via. Può essere qualunque cosa, bisognerebbe avere il sistema di decifrarlo, vabbè, ma sicuramente non siamo con attrezzature normali in condizione di farlo. Natali, scusa se ti ho interrotto, avanti di nuovo. No, non vi preoccupate, che stavo facendo cosa al computer io, non sono riuscito a trovare nulla. Si zagaretto. A te quando ti arriva di fare il segnale? Ma più o meno come arriva a te, secondo me è un segnale di preparazione, dato che avevo già stamane ascoltato, c'erano tanti tedeschi in giro, perché noi siamo ben esposti verso la zona dell'est, Olanda, Germania, eccetera, sono le zone che la Sardegna più valigia, sembrerebbe. E questo è un segnale praticamente continuo di qualche sistema, ovviamente con deve avere un'antenna, considerato che questi sistemi sono tutti a bassissima potenza, sicuramente deve avere qualche antenna molto performante per arrivare qua, così che di casi anche per il packet a 27.235. C'è anche l'articolo, tra l'altro, della rete, è molto interessante. C'è un baracchino attaccato, quindi ci avrà quanto 4 watt in FM. Manda pacchetti a Go, tanto di lì è facile perché non c'è neanche il limite del coso, no? Della banda passante, perché essendo a 1200 riesce a passare tranquillamente il packet, se invece aumenti oltre i 1200 quando vai, che ne so, a 2002, a 2004 anzi, o giù di lì inizia a pigliare colpi, perché le prese microfoniche non vanno bene, devi andare sulla presa d'atti. Tutto lì. Quindi insomma ce ne sono sempre di più, io non ascolto tantissimi adesso. Dammi un attimino, sono andato al telefono, lo riprendo subito. Sì, ok. Così è nata lì. Oh, io tra poco devo andare insomma a controllare la situazione. Beato te, quando ero in campagna io sempre a rotto me la facevo la cosa. Avevo il barbecue fuori dalla nella veranda lì, casa, a beffa mi facevo. Dato che c'è bisogno di sfruttarla in qualche modo, la giornata è un po' strana, però, insomma, poi si va dentro a mangiare ovviamente, non se ne va vale fuori se no si becchi la fregatura. Infatti, oggi non è tanto per l'acquale, anche più brutto stamattina. Sì, infatti, è un pochino ma più brutto, il ritmo è violento, quando si mette poi diventa una pioggia violenta e smette subito, modello tropicale. Buongiorno. Buongiorno, non ti abbiamo riconosciuto. Ciao Gianfranco, Giulio, ciao Natalino, sono arrivato in questa stanza che mi sto preparando la televisione per la partita fra una decina di minuti, riprendi? Sì, buongiorno Giulio, ben ascoltato dopo tanto. Niente, siamo anche in compagnia di Roberto che presumo sia ancora al telefono. Riprendi Natali, ma prima controlla se è rientrato Roberto. Ritrovandomi Giulio. Oh, ciao qua, sono appena arrivato a questa stanza. Ho appena acceso la televisione, ho passato il volume chiaramente, stavo disturbando il baracchino. Mancano pochi minuti male. Io non ho molta speranza, perché per come l'ho vista anche l'ultima partita non mi è piaciuto affatto. Vabbè, comunque. Vi prendete pure, continuate, intanto io incomincio a preparare il tutto, sperando di riuscire a vedere la vincente anche oggi. Avanti ancora Claudio, fai girare. Ciao Giulio, non sono stato salutato, non l'ho già salutato, perché sono in attesa di visti. E vediamo un po', se mi soddisfa la guardia, se no spengo direttamente. Beh, continuate, già ci sentiamo. Ok, ciao Giulio, un abbraccio, un saluto. Vai Natali, scusa. E figurati. Ciao Claudio, ciao Giulio. Anche io adesso me ne passo in QRT, perché devo andare a fare delle cose e poi pranzare. Vabbè, ciao Gianfranco, grazie per la chiacchierata, e Roberto si nasconde. QRT per me alle prossime. Sono rientrato io. Ciao Natalia, ben sentito, dai, scusate l'interruzione, vai Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buona domenica ancora, e ciao anche a Natalino. È entrato anche Giulio, Roberto. Ti volevo dire, guardandolo meglio, sì, è vero che tipo macchina da cucire il segnale, però quello di risposta invece è una linea praticamente larga, cortissima, quindi quello che vedi tipo macchina da cucire, se c'è la possibilità di averlo come segnale, è un zig zag. L'altro invece di risposta, che è brevissimo, è solo un segnale diciamo orizzontale, quindi dovrebbe essere un ok ricevuto. Guarda la pesca, cosa può essere, magari qualche cosa di una trasmissione sicuramente molto molto molto lunga, intervallata da ok ricevuto, tutto lì. Riprendi Roberto e vai per Giulio. Ciao Giulio, non ti ho sentito, comunque ti dico come hai sentito, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Roberto, sì, mi sono diciamo isolato un po' dal resto della casa, perché loro stanno guardando la televisione giù, ma io fra 10 minuti inizia la partita, la voglio vedere, e sono appunto salito in un'altra stanza e mi sono già preparato la televisione. Abbasso volume naturalmente, anzi l'ho tolto addirittura, in modo che poi non possa disturbare il baracchino tutto lì. Per cui un paio di passaggi e dopodiché chiudo per la partita. Roberto, si prende ancora e fai girare tu, vai, stai già fatto. Sì, e anche io me la metto in sottofono, tanto ancora. L'inizio delle partite sono sempre un po' così, ma la metto col telefonino, tanto. Preferibile molte volte quando fai chiacchierate, poi se vede la partita si evolve, magari cambi canale. Ok, salutate anche a Claudio. Claudio chi? Sparviero, Gianfranco chi? Sparviero. Ah no, pensavo un altro Claudio, perché Claudio era entrato e l'ha salutato già, l'ho salutato io. No, questi segnali a capire cosa c'è, ma noi non sappiamo niente. Una cosa volevo dire, come fate a individuare la direzione? Ma in direttiva la stavi ascoltando questi segnali particolari, Gianfra, o così in verticale? No, sono in verticale, però il 90% so che arriva da quelle zone, perché è un classico, perché sono i segnali più forti, e i tedeschi sono i più, come dire, tedeschi, olandesi e compagnia cantante, sono i più attivi in questo campo e sfruttano un po' tutto, 26 compresa. No, però non so se Giulio ha sentito il discorso, stava su una frequenza 26-690, ci sono dei segnali strani, ripetitivi, a capire se sono segnali dati, ma tutto uniforme il canale, diciamo, la cascata, o ci sono delle interruzioni differenze di informazioni notti, Gianfranco? Sì, te l'ho detto, allora, il segnale che fa una macchina da cucire a zigzag, no? Dopo che si interrompe per meno di un secondo e riceve un altro segnale, che è un segnale di ricevuto, di rivolgente, che è piatto, totalmente piatto, con una piccola coda, che non può essere altro che un segnale ricevuto, e quello ricomincia a mandare. Quindi è un segnale con confezione d'errore probabilmente, però di chi sia, puntini, puntini, puntini, non si sa, anche perché è molto lungo. Quindi una trasmissione molto lunga, l'unica cosa di lungo che io conosco sono tipo il meteo, Marco, le cose lì, però non è né un sensor né una telescrivente classica, se no la riconoscete subito al rumore. E invece è un segnale tipicamente, diciamo così, composito, che può essere a vari tratti, quindi va alla pesca. Scusa giù, ma è una frequenza non censita, nel senso non è né radioamatoriale né cosa, sto guardando sul piano delle frequenze, a quella banda lì ci sono solo i PMR, da 26,3 a 26,8, con 5 kHz, spaziati di 5 kHz, e lo usano le aziende di trasporto questa cosa qua, questa banda qua, ma non che non stanno trasmettendo dati, per dire qualche azienda, non so, di quelle che trasportano, tipo quella, posso dire, Amazon, cose del genere, che la stanno utilizzando per dare i tabulati delle spedizioni, non lo so, il computer risponde o chi ricevuto. Ma non credo che quelli sono altri sistemi, sono un po' in alto. Questo è una cosa, come dire, fatto da 26 fino a 45, in teoria è tutta roba militare. Quindi qualsiasi sia quella, qualsiasi anche loro, non lo possiamo escludere. Sì, tutto è possibile, poi con questi periodi strani ci aspettiamo di tutto. Vai Giulio, a te il mic. Ok, allora, 26 è 960, boh, io non sono passato lì ma non sento niente, sento solo degli impulsi e basta, niente di più. Va bene, dai, comunque mi ha fatto piacere che li ho salutato, per cui mancano 5 minuti per l'inizio della partita, io vi saluto e vi ringrazio per avermi fatto entrare e poi magari ci sentiamo stasera. Avanti Gianfranco, ciao Roberto e ciao Gianfranco, saluto a entrambi, è un piacere ascoltarla. A vai Gianfranco. Sì, ciao Giulio, buona partita, buon pranzo e buona domenica soprattutto. Alle prossime, riprendi Roberto. Sì Giulio, ciao, buon tutto, buona domenica. Comunque il 26690 Giulio, se vuoi provare. Ma sono passato lì perché avevo capito bene la frequenza che mi avevi dato, ma io sento solo degli impulsi e basta, niente di più. Tu sento altro o Roberto e Gianfranco, non sento altro, solo dei piccoli impulsi e niente di più. Va bene, che l'antenna che ho io probabilmente per quella frequenza che stanno usando non è idonea, perché già come ho detto altre volte io sono penalizzato per quanto riguarda la frequenza di fuori della 27, perché anche i 40 metri è molto sorda la game masse, perlomeno a me mi succede così. Va bene, vi ringrazio ancora per avermi fatto entrare, vi saluto di nuovo, ciao e buon pranzo quando lo farete. Avanti Gianfranco, ascolto finale e poi chiudo immediatamente, vai. No, non è telescrivente, questo lo decifra già la sola la tele. Sì. No Giulio, guarda, va da 24, forse anche 21 si fa la rimasta, però la mia, ma da 24 a 31-32 è una cosa abbastanza riuscita, la Game Master, e tra l'altro con poco rumore, quindi va benissimo, già ci arriva a voglia, fossero così tutte. E niente, riprendi Claudio. No, è iniziata la partita, ho girato anch'io, e mi arriva anche abbastanza forte il segnale, mi sembrava una telescrivente, invece no. Non è una prescrivente. Va bene, sta iniziando la partita. Vi saluto, buon pranzo a tutti. Se coincide stasera. Ciao ciao. Ciao caro, ben sentito e saluto anche a Giulio. Buona partita, dai. E buon tutto. Anch'io rimango un pochettino e poi vado a mangiare, che sta iniziando a girare un pochettino i minuti, come dicono qua da noi. Vai Gianfranco. Anch'io probabilmente anche già tutto cotto, quindi mi devo affrettare. Sì, non ho la telescrivente perché già lo sai, c'è un rumore caratteristico. Per chi c'è orecchio se ne accorge subito, questo è un segnale di alta natura. Dovrei attaccare il PC, che adesso è spento ma è troppo tardi ormai. Poi magari se c'è stasera le do un'occhiata nel dettaglio, perché c'è il code 3 e quello decifra buona parte dei sistemi dei sistemi d'atti, secondo me non ti dice cosa diavolo è. Poi insieme a quello più sotto ci sono anche segnali tipicamente usati dagli astronauti tedeschi, che sono in cerca persone, loro hanno un sistema particolare che dà dei numeri, ovviamente questi numeri corrispondono al codice della cerca persone che sta chiamando. Questa invece è proprio una trasmissione costante, ecco, praticamente costante con breve interruzione per sapere se tutto quanto è andato liscio. E così, ce ne sono tanti di questi attrezzi, per quello c'è anche un segnale che cammina, no? È molto difficile da vederlo, che intorno agli S3-4 di norma, che cammina lungo tutta la banda e poi ritorna indietro come se fosse una specie di radar, si fa, che ne so, la 25, 26, 27 a seconda, oppure anche più sotto delle piccole porzioni di banda. Sembrerebbe una specie di scansione automatica. Sì, sì, lo conosco, è un sistema al contrario, fanno per rendere difficile la centratura, diciamo, come si chiama, per riceverlo pulito, fanno tutta la banda, lo usano anche in bande basse, queste cose qui, soprattutto per questi militari, lo saprai meglio di me, e trasmette continuamente a frequenze variabili, ci vuole un apparecchio decodifica che deve seguire e sapere in che punti trasmette, perché l'informazione non tramanda solo su una banda, su una frequenza, tra su tante frequenze, ed è un sistema molto molto sofisticato. Sì, tu alludi a quello che in gergo chiamano frequenza hopping, che vuol dire frequenza salto, però questo è molto diverso, come io riconosco quel tipo di segnale, perché te ne accorgi, se tu guardi anche su internet vedi che lasciano tanti punti, qua più che un punto è una camminata, di sotto una scansione precisa. Io penso che sia qualcosa magari di un po' differente, di un controllo meteo magari, roba del genere, roba meteorologica, che sono da varie frequenze per capire un po' qual è la situazione. Una domanda, questa io adesso non ho avuto tempo di cercarla, questa 26690 è fissa o si muove? Cioè l'hai notato se c'è anche per dire a 24, c'è a 25, cioè quel tipo di segnale solo su quella frequenza lì lo senti continuamente? Per quello che riguarda lo spettro di circa un megahertz è soltanto su quella frequenza, sulle altre ce ne sono di altri tipi. Però questo così largo e così prepotente è solo lì. Sì, non so, sarebbe bene vedere con l'analizzato di spettro per vedere se questa intensità di segnale viene solo, cioè dire, se c'è solo quel segnale oppure arriva anche altri segnali della stessa intensità su altre frequenze diverse in contemporanea, voglio dire. Dipende dal servizio che fa, secondo me è solo su questa frequenza perché tipico segnale che serve come comunicazione punto punto, ecco, quindi non è una comunicazione broadcasting per tanta gente, ecco, per singole postazioni probabilmente, anzi per una singola postazione sono in due, in parole povere, uno che riceve e uno che trasmette. L'unica trasmissione del ricevente dovrebbe essere un ok praticamente. Sì, ma la cosa curiosa, stanno analizzando una banda di frequenze molto critica, cioè quando fanno questo tipo di operazioni normalmente il cervello è una cosa stabile e utilizzano magari in linea ottica punto punto, qua invece stanno utilizzando una banda di frequenza che ci sono dei decadimenti a seconda delle condizioni atmosferiche eccetera eccetera e di subi soprattutto. Si può dire ni. Non è detto, innanzitutto bisogna pensare in termini di distanza tra le due stazioni e poi anche in base ai sistemi, ai sistemi di errore che hanno, ecco, che potrebbero essere notevoli. Ripeto, tieni presente che ti faccio un altro esempio. Tutti i vigili del fuoco d'Europa praticamente utilizzano l'UHF basso e notoriamente molto disturbato dalle broadcasting che ci sono dagli 80-108, eppure l'ho visto che li usano tranquillamente, capito? Noi non sappiamo che filtraggi ci siano e che classe di apparati utilizzino per evitare ogni sorta di disturbo. Sì, sì, quello è vero, però mi meraviglia con le tecnologie che ci sono, cioè dico, cioè, arrivare a satellite a utilizzare ancora la banda qua, diciamo dalla banda degli 11 metri. Ma guarda, sapete che costa, non è, cioè, sono tante le tecnologie, però secondo chi è, secondo cosa deve fare, c'è anche un discorso economico di quanto è il costo e di quanto è l'efficienza a parità di costi, perché certamente se spendi 20 volte tanto puoi avere un risultato identico, però per identico tanto vale utilizzare quello più economico, che magari nel tempo si dimostra anche sempre sicuro, comunque non è detto che le vada sempre andare male. Sì, vale, possono essere anche dei segnali secondari, c'è il primario, magari utilizzano un'altra linea, questo è un segnale di riserva, non lo so, per certe situazioni particolari non sappiamo niente. Penso che a livello militare non abbiamo problemi economici, qua magari potrebbe essere anche qualcosa di privato particolare. No, a livello militare la frequenza è utilizzata, non ci sono limitazioni, capito? Per chi conosce come funziona il sistema, ricordati sempre che il militare, solo in casi tipo navale o tipo quelle cose lì, si utilizzano altre potenze, ma di norma, se tu guardi anche gli apparati che usano o che usavano, anche quelle strutture, hanno un watt e mezzo, 500 milliwatt, e uno dice, ma dove vogliamo andare con queste potenze? Con quelle potenze basta andare a un chilometro e loro sono contenti e felici, in modo che il nemico, che magari a 2 chilometri, non lo sente. Tutto lì è il segreto, poi non c'è da meravigliarsi, quindi che sia 26, che sia 1 GHz, che siano 40 MHz o i 30 e così via, loro sono sempre lì. Anche molti carri utilizzano la banda 30-35, che se ben ti ricordi è anche usata dai carabinieri quando eravamo piccoli. Sì, no, sarebbe interessante vedere, capire, per il momento non posso ancora farlo, la direzione del segnale, da che parte viene. Ma guarda, sicuramente dalla parte Germania, Olanda e paesi limitrofi, quindi comprendici anche Ungheria, Bulgaria, Svezia, insomma tutto quel lato, ovviamente compreso anche l'Unione Sovietica. Quindi tutta quella zona lì, in cui noi, ripeto, siamo molto molto favorevoli. Sì, sì, ok, adesso lasciamo un attimino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare, attenzione, canale 10, chi vuole entrare avanti. Sulla, riprendi tu Gianfra. Ad esempio oggi forse non ricevo un micro segnale che c'è sul canale 27095, un po' più su di questo, ma è molto basso di norma, non è un segnale come quello lì. È costante, però c'è sempre. A me era capitato forse l'anno scorso che c'era sempre questo segnale fisso ma forte, arrivava a Santiago numero, rimasto per diverse settimane, diciamo una decina di giorni, fuori leggermente sulla banda degli 11 metri, però leggermente spostato dai canali con le canalizzate, e c'era sempre questo segnale fisso Santiago 9, dicevo chissà che cosa era, non sono mai riuscito a capire, un segnale digitale probabilmente perché non capivo niente. Un attimo, mi stanno chiamando. Io, sì, è suonata la donata per la messa. Ci sentiamo stasera, vabbè, così vado anche un po' se riesco a capire meglio cosa stiamo a fare. Anche se di norma quando sono così hanno tutto l'interesse a non farsi scoprire, e già lo so il perché. E alle prossime, buon pranzo anche a te. ciao. Ciao ciao, buon tutto, se coincide ci sentiamo magari stasera, ciao.